giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Buona domenica da Lara Zani e Rita Micoli in questa breve edizione del giornale radio regionale in primo piano. I 100 anni dell'Ana di Gorizia, celebrati ieri con il conferimento della cittadinanza onoraria alla sezione dell'Associazione Nazionale Alpini e oggi con uno sfilamento. Poi la cronaca con Mujan, che oggi invasa dall'acqua, e un incidente mortale ieri sera a Tarcento. Infine i donatori di sangue di Trieste e lo sport con calcio e basket in primo piano. Un fine settimana dunque tutto dedicato agli alpini a Gorizia per festeggiare i 100 anni della locale sezione delle Penne Nere, il servizio. 3 giorni per festeggiare 100 anni. Compie un secolo la sezione alpina di Gorizia, una ricorrenza celebrata da venerdì e per tutto il fine settimana con un raduno culminato nella sfilata delle Penne Nere lungo il centro della città. Hanno marciato oltre 1 migliaio di alpini da tutto il Friuli Venezia Giulia e da diverse parti d'Italia, applauditi dai cittadini lungo il percorso da Piazza delle Rimembranze fino a Piazza della Vittoria, dove si sono tenuti i saluti delle autorità e poi la messa in ricordo dei caduti nella chiesa di Sant'Ignazio. A salutare gli alpini radunati è intervenuto anche il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, che insieme al capo di Stato Maggiore della Brigata Giulia e al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini ha passato in rassegna le sezioni. Lo spirito alpino è una sorta di religione laica che attraversa le generazioni, ha detto Ciriani, mentre Paolo Verdoliva, presidente della sezione di Gorizia, ha ricordato le tappe della storia di una sezione nata in un luogo che durante la Grande Guerra era territorio austriaco. Per il sindaco Ziber, gli alpini sono testimoni di italianità all'estero, ma anche in Italia, sono segno di attaccamento alla patria, mentre il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, ha ricordato la necessità di trovare nuove reclute per dare un futuro alla storia degli alpini, riportando in vigore l'obbligo di un servizio militare o civile per i giovani. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E ieri sera la città di Gorizia ha conferito la cittadinanza onoraria alla sezione ANA nelle mani del presidente nazionale Sebastiano Favero. Sul palco il coro ardito d'esio dell'ANA di Palmanova e la fanfara della Giulia. Sentiamo il presidente Favero e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Ricevere anche la cittadinanza onoraria da parte della città di Gorizia veramente ci fa enormemente piacere. Piacere è anche quell'affermazione di unità da un lato e di appartenenza dall'altro, perché darla all'Associazione Nazionale degli Alpini vuol dire riconoscere che gli alpini a Gorizia ci sono stati fin dall'inizio, voglio ricordare la Prima Guerra Mondiale, ci sono oggi e sono insieme con i cittadini di Gorizia per una patria unita. Ma abbiamo trascorso tante occasioni con gli alpini a Gorizia, non solamente a Gorizia, memoria, ricordo, feste, cultura, sport. Oggi è il giorno del ringraziamento e virtualmente oggi perciò la città di Gorizia potrà indossare finalmente il cappello degli alpini. Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il meteo. 3° giorno consecutivo di acqua alta a Muggia, la zona del Mandracchio è andata sotto anche nella mattinata di oggi ed è stata chiusa al traffico. Situazione comunque non paragonabile a quella disastrosa di venerdì e tornata alla normalità nel giro di 1:30 alle 10:30. E infatti la circolazione ha potuto essere ripristinata. Nessun problema invece a Grado, dove il picco di marea di 1,26 m raggiunto alle 9:20 è passato senza danni per poi lentamente calare. Resta comunque valida l'allerta gialla emessa dalla Protezione Civile ieri per l'area costiera legata appunto ai picchi di marea. Durerà fino a mezzogiorno di domani lunedì. La Regione con l'assessore Riccardi ha svolto un sopralluogo a Barcola. La forza delle acque, scrive Riccardi su Telegram, ha letteralmente strappato parte della pavimentazione, specialmente in alcuni punti, dislocando anche parte delle pietre di protezione. Ieri invece sopralluoghi in alcune delle zone maggiormente interessate dal maltempo nella Pedemontana, con una prima valutazione dell'entità dei danni provocati dalle frane in comune di Tarcento, sul Monte Bernadia e in alcune località dell'Alta Valtorre. Quest'ultima è l'area più colpita, aveva spiegato Riccardi, e interverremo il prima possibile per il ripristino. Vediamo allora la situazione del meteo. Il cielo è attualmente da poco nuvoloso a variabile sulla regione. Le temperature registrate alle 11 a Trieste e Gorizia 18,5 gradi, a Udine 17 gradi, a Pordenone 16, a Tolmezzo 13 gradi, a Tarvisio 12,5 gradi, a Forni di Sopra 10,5 gradi, a Sappada e sul Piancavallo 8,5 gradi, sul Monte Lussari 6,5 gradi, sullo Zoncolan 4,5 gradi, sulla costa grado 18 gradi, Lignano 17,5 gradi. E vediamo le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio su costa e bassa pianura avremo cielo variabile, sui monti e in alta pianura coperto. In serata cielo ovunque in genere coperto con qualche pioggia sparsa. Tra domani e martedì marcato peggioramento con scirocco sostenuto sulla costa e piogge intense tra pianura e monti. La cronaca: c'è stato un incidente mortale nella tarda serata di ieri a Pradandons di Tarcento. Una donna, Daniela Noacco, di 77 anni, di Taipana, ha perso la vita lungo la strada regionale 356. Erano circa le 23:15 quando, forse a causa di un malore, la donna ha perso il controllo della vettura ed è uscita di strada. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza da Gemona, l'automedica da Udine, l'elisoccorso, oltre ai carabinieri di Cividale e ai vigili del fuoco. Nonostante i tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna nell'incidente. Non sono stati coinvolti altri mezzi. A Trieste la consegna dei riconoscimenti per la 60ª giornata provinciale del donatore di sangue. I primi a salire sul palco sono 8 diciottenni che hanno donato il sangue nel giorno del loro compleanno. A loro va il riconoscimento dell'Associazione Donatori di Sangue di Trieste, riunita per festeggiare i suoi 60 anni all'Auditorium Generali del Porto Vecchio, pieno di oltre 500 donatori. Ho cominciato a donare perché ho in famiglia tante persone che donano e secondo me comunque aiutare in questo modo con una 5 minuti, 10 minuti in ospedale per prendere il nostro sangue potrebbe essere utile a tutta la popolazione. Proprio i giovani contribuiscono sempre più a far crescere il bacino dei donatori. La regione è autosufficiente sulle donazioni di sangue e lo fornisce anche ad altre regioni. Ora mira a chiudere l'anno in pareggio. Massimo Laraia, direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale di Asugi. Nel nostro settore, cioè nel nostro dipartimento, c'è un leggero calo che è avvenuto quest'estate. Diciamo, c'è stato un calo su Trieste, Gorizia, Monfalcone, che pensiamo, contiamo di recuperare con l'apertura delle scuole e delle università, perché il bacino degli studenti per noi è molto importante. In 29 hanno ricevuto invece la targa per aver superato le 100 donazioni per gli uomini e le 80 per le donne. Ho cominciato giovane, volendo aiutare un amico che aveva bisogno di sangue. E ho continuato perché me lo sento dentro, eccolo. È una cosa che deve venire dall'interno di ciascuna persona. A centinaia di altri orgogliosi donatori spettano le stelle o i distintivi dorati, le medaglie d'argento e bronzo. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Il comune di Clauzetto diffida Poste Italiane a garantire la riapertura dell'ufficio postale entro il 6 novembre. L'ufficio è schiuso dallo scorso 11 luglio e l'ulteriore proroga della chiusura appena comunicata da Poste Italiane fino al 15 novembre assume ora i contorni di un'autentica presa in giro, attacca il sindaco Giuliano Cescuti. In una lettera di scuse da parte di Poste Italiane di inizio ottobre si parlava di ragioni indipendenti dalla volontà aziendale e di riapertura entro la prima settimana del mese di novembre, sottolinea il sindaco. E passiamo allo sport con il calcio. È il giorno del nuovo esordio del mister bianconero Cioffi, chiamato a prendere il posto dell'esonerato Sottil sulla panchina di un Udinese alla disperata ricerca di punti. Si gioca alle 15 sul campo del Monza. Il club friulano è ancora a secco di vittorie, solo terz'ultima in classifica la squadra, con 6 punti frutto di altrettanti pareggi. In Serie C, 7ª vittoria di campionato invece ieri per la Triestina, che ha battuto per 2-1 il Fiorenzuola Rocco. Gli alabardati sono secondi in classifica a 3 lunghezze dalla capolista Mantova. Nella ripresa Tesser con Ciofani ha trovato maggiore intensità. I gol sono arrivati da Lescano e da Vallocchia. In mezzo il temporaneo pareggio di Bondioli, decisiva nel finale una parata di Matoscevic che difende il vantaggio alabardato. Il basket nel campionato di A2, oggi impegnate la Pallacanestro Trieste sul parquet di Verona alle 18 e alla stessa ora Upworld Wild West Udine a 100. La terza regionale, la Gesteco Cividale, ha giocato ieri sera contro il Nardò ed è stata battuta per 79-75. Una prestazione, quella dei Ducali, che non è piaciuta per niente a coach Pillastrini. Abbiamo giocato sparacchiando tiri da 10 metri, non avendo una presenza praticamente nulla dentro l'area. Ancora un confronto a rimbalzo in cui abbiamo perso, quindi è chiaro che ci stanno mancando cose su cui contavamo. E noi ci alleniamo molto bene, tutti i ragazzi mettono un grande impegno, ma il passaggio dall'impegno, che non può mancare, non deve mancare, a essere dei guerrieri, è un passaggio da cui non possiamo prescindere. In chiusura, a Sacile la mostra Ogni vita è un capolavoro, racconta il mondo dell'anziano e della demenza. I quadri esposti rappresentano alcuni dei più famosi dipinti reinterpretati dagli anziani che risiedono nelle strutture gestite da Isra a Treviso. La mostra sarà aperta al pubblico a Palazzo Ragazzoni da oggi al 12 novembre con i seguenti orari di visita: il giovedì dalle 9 alle 12, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 16 alle 20. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Paolo Cassano e Mauro Ciccarelli, in redazione ha collaborato Laura Sarasini, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e ancora l'augurio di una buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.